Christmas. Children laughing, people passing, greeting smiles, laughter smile, and on every street corner you'll hear silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Ring-a-ling. Christmas is be wild. I'm dreaming of a white Christmas. C'est un cri d'amour rempli de chaleur qui essaie toujours d'approcher nos cœurs. Entends la voix des anges partout là où la nature est belle à pleurer, où tout se mesure en immensité. Entends la vie chanter. C'est un chant magique et tellement touchant, comme la musique d'une voix d'enfant. Entends la voix des anges, dis-toi que c'est la prière que tout le monde comprend, la paix sur la terre que le monde attend depuis la nuit des temps. Entends la voix des anges, il faut qu'ils se lèvent enfin ce matin lumière, où les musiciens de la terre entière joueront la voix des anges. Heaven and a nature sing, and a heaven and a nature sing. un bambino solo, coi capelli rossi, aria da furbino, e cantavo sempre solo in mezzo ai campi, tra il vento e i girasoli, libero come un passo, annusavo le stagioni. Quanta neve scende, domani è Natale, pace tra la gente, baci, mani, lacrime, durava solo un giorno, poi finiva tutto, dicevo, perché non è Natale, Natale tutto l'anno. Ma non è mai cambiato niente, e non c'è stato mai un giorno d'amore, quello che ti fa sperare, che ci cambia il cuore, quell'amore che si accende come un fuoco nel dolore. Se io fossi il tempo, correrei più svelto, trasformando il mondo. Tutti quanti bimbi, allora sì, saremmo vivi ancora, sarà Natale ogni giorno, ogni ora, e cambierà la nostra vita, sapremo finalmente che non sarà finita, impareremo ad amare quelli che nessuno vuole, quelli nudi, quelli soli, feriti in fondo al cuore. Ma non sarà finita, porteremo quell'amore che ci scalda il cuore, quell'amore che si accende come un fuoco nel dolore. Quanta neve scende, è Natale, pace tra la gente, dura solo un giorno, ma se ci facciamo piccoli come quel bambino che nasce dentro al nostro cuore e ogni giorno è più vicino, sarà sempre Natale, Natale tutto l'anno. stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared. Grateful chorus raised. boy. They made you be born in a manger, sweet little holy child. They didn't know who you are, sweet little Jesus boy. They made in a manger, sweet little holy child. They didn't know you were. They didn't know you come to save us, Lord, to wash our sins and we couldn't see. We didn't know who you were. They made you be born in a manger. They didn't know you come to save us, Lord, and wash our sins and we couldn't see. autopromocja. Dziś cofniemy się do roku 2017 i jednego z najlepszych świątecznych koncertów w historii Trójki. Człowie leży, któż pobierze, komendować małemu. Kaja ze swoim wspaniałym zespołem i ich koncert bożonarodzeniowy. No tak, może to nie była cicha noc, ale była na pewno święta. Repertuar od W żłobie leży do Let it snow. Retransmisja dziś tuż po 18:00. Do usłyszenia. Autopromocja.